Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Datemi 3 secondi di silenzio. Sente bene? Pronto? Beh. Pronto il pesce? Stiamo con la terza puntata di dei Film Buster. E salutiamo il Monco. Ciao a tutti. E salutiamo l'Intrinseco. Ciao. Io al solito sono Alex Diro. Non vi dico il mio nome perché già lo sapete. Ciao Alessandro. Sono famoso. Beh, oddio, Alex Diro, non è che era tanto difficile dedurlo. Allora, come va con sto caldo, ragazzi? Fa caldo. Sciolto. Sì? Ho fatto la sciolta. Hai scioltato? Sì. Allora, questa... Ma... Che tristezza. Sarà condiscendente, però. Sì, l'editing sarà pesante, l'editing. No, però... Ci credo che poi ci danno dei mosci. Appunto, tu togli tutto il divertimento. Perché, scusa? Ho detto scioltato, sto molto... Sono molto partecipe, sono molto divertente. Quando parliamo di cacca, gli ascolti decollano. E passiamo alla prima rubrica di oggi, ovvero la rubrica trailers, dove vi parliamo dei più importanti trailer usciti della settimana. Il più importante è quello per cui il Monco si è sbrodolato. È il trailer del nuovo film di P.T. Anderson, ovvero The Master. Ne parlo un po' io, vuoi parlare un po' tu? Molto? Vai tu, amore. Vado io, grande. Allora, The Master è un film ambientato nel secondo dopoguerra e ispirato alla controversa setta di Scientology. Vediamo sulla scena il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, che a seguito non ce l'ho a sapere di cosa, insomma, si ritrova un po' spiazzato dalla vita e quindi trova conforto in questa setta di cui il capo è interpretato da Philip Seymour Hoffman, sì. Il trailer l'avete visto, insomma, che Monco, parlacene un po' delle tue impressioni, dato che sei quello più hypato per questo film. C'è troppo tempo da aspettare ancora, io vorrei che fosse già pronto, infatti non abbiamo neanche il trailer, questo è un teaser ancora. Che è già più lungo del primo teaser, però si vede poco e niente. Però insomma è Paul Thomas Anderson, io sono contentissimo, ogni volta che esce un suo film è un evento epocale, quindi wow, non vedo l'ora e non voglio e non mi sto interessando troppo, lo farò arrivare, andrò e godrò, basta. A scatola chiusa, insomma, vai un po'... Beh, è Paul Thomas Anderson... Sì, insomma, io sono contentissimo che continui a girare film ambientati, tra virgolette, nel passato, comunque meno remoto. Ho visto quanto era bello Il Petroliere, insomma, ho visto anche la fotografia di questo, le tinte sono le stesse, anche se non sbaglio l'aiuto regista, comunque il direttore della fotografia è cambiato, ma non si vede, è sempre bellissimo. Poi la storia è potenzialmente esplosiva, quindi... E poi sono contento soprattutto di vedere Joaquin Phoenix che lavora e lavora in un film così, insomma, dopo quell'esperimento, quel documentario che aveva fatto, qualcuno addirittura lo dava per spacciato come attore, forse ridendo, però magari qualcuno ci credeva davvero, invece insomma un bel ritorno. Poi sembra perfetta, il viso davvero adatto al personaggio, certo, che sembra mostrare il trailer. Cioè, certo, c'è Amy Adams, non so, anche quello è un valore aggiunto. Una cosa che ho apprezzato è che alla colonna sonora ci sarà ancora Johnny Greenwood, che aveva già collaborato con Anderson per Il Petroliere, e secondo me la colonna sonora del Petroliere era una delle cose migliori del film, insomma, martellante, angosciante, veramente splendida. Gli atti usati in quel modo, il finale, madonna. Sì. Mamma mia, che filmone, infatti. sono intrigato, perché mi ricorda quel film, mi ricorda più Il petroliere che altro, quindi... Vabbè, anche perché Paul Thomas Anderson non ha avuto degli scivoloni di sorta, insomma, la filmografia di Anderson mi sembra ci siano solo filmoni. È un crescendo. È un crescendo, sì. Meglio, credo, almeno. Non ho visto ancora tutto, ma da Sydney in poi mi sembra sempre un salire. Vorrei ricordare che non ha studiato cinema, eh? È uno che si è fatto da solo, quel ragazzo lì, eh? Altro che. Sarà quello il trucco, fare fuori dal settore, Dagli ambienti accademici, probabile, sì. Volevo segnalare un'altra cosa, giusto per beffarmi del personaggio. Jeremy Renner doveva interpretare il ruolo che sarà di Joaquin Phoenix, ma l'ha rifiutato per fare Avengers. Allora, avrà fatto i suoi porci soldi, perché sicuramente gli è convenuto, però insomma, rifiutare un film così per gli Avengers, che magari sarà anche un bel film di intrattenimento, non voglio fare il criticone, però insomma, ma è un po' vendere l'anima al diavolo, sì, dai, è un peccato, vuoi mettere il trampolino di lancio un altro, poi comunque scusate, posso? Dai. prego sì. Carriera in impennata continua di Paul Thomas Anderson, però tra il capolavoro Magnolia e il capolavoro Il petroliere ci ha infilato un film bellissimo, non della stessa importanza di quelli degli altri due, che è Ubriaco d'amore, una bellissima commedia romantica sui generis, che quindi ha segnato un po' una piccola pausa, però sì, parliamo di una carriera che continua a migliorare e magari scateno un vespaio, ma Il petroliere è un film migliore di Non è un paese per vecchi, quindi quell'Oscar stavo per dire la stessa cosa, la vendetta, sì, ma... tecnicamente sicuramente, forse come sceneggiatura, come fonte preferisco Non è un paese per vecchi, ma tecnicamente non lo so, io ogni volta che vedo il finale mi vengono i brividi di Il petroliere, è una cosa poderosa. Poi quelle camminate nel deserto, o la macchina che cigola e si avvicina alla stazione, quelle musiche, non so, sì, sono d'accordo. Infatti, a me comunque è piaciuto un sacco il film dei Coen, ma Il petroliere è... Oh. Io parlavo di film e regia, non sceneggiatura, sì, sì. E storia, ma dategliela pure ai Coen. Era per fare un distinguo, però sì, sono d'accordo. Che poi, vabbè, qua rischiamo di impelagarci nel discorso che Hollywood tende sempre a premiare i suoi migliori autori in ritardo, perché comunque i Coen sono stati premiati per Non è un paese per vecchi, che non è neanche lontanamente il loro miglior film, insomma. E sì, l'ho sempre detto, anche secondo me il petroliere meritava quell'Oscar, però vabbè, dai. No, più che altro anche il fatto che è rimasto, mi sembra, quasi totalmente a bocca asciutta Anderson, giusto la colonna sonora, forse, non sì, lo so. Se sbaglio, sì, quell'anno non è... Sì, insomma... Peccato, è un peccato che sia sì, stato ecco, da meno fastidio che premino i Coen piuttosto che qualcun altro, come in altre occasioni, però sì, forse non è la premiazione giusta. Abbiamo fatto un errore, vinse due premi Oscar, vabbè, per il miglior attore protagonista, che ce lo siamo dimenticato, il cosa più scusa di quell'anno. E la migliore fotografia, dove Robert Elswit vinse su Roger Deakins, che invece aveva la fotografia di Non è un paese per vecchi. Che c'entra? Vabbè, minchia. Sì, ha vinto, ma non ha vinto il primo premio. Vabbè, ho capito, però diciamo era rimasto a bocca asciutta, ha vinto comunque due importanti premi. Il contentino, va bene. Il contentino, vabbè. Quello Robert Elswit è quello che non lavora più con Anderson da questo film. Non mi veniva il nome, comunque. Alex Diro, ma mi sembra che dovremmo parlare anche di un altro trailer. Ma è ovvio, parliamo del trailer del nuovo film di Robert Zemeckis, che finalmente ha abbandonato l'animazione in performance capture ed è tornato a un film live action, ovvero Flight, interpretato da Denzel Washington. Mi sembra di aver visto anche Don Cheadle, che dovrebbe interpretare l'avvocato, esatto, della vicenda. E John Goodman, cioè. E John Goodman, esatto, sì, grandissimo. Che è ringrassato, se non sbaglio. Nel trailer sono di nuovo più grande. Ormai interpreterà Jabba the Hutt nel reboot di Star Wars, già è firmato quel contratto. E The Flight parlerà di questo salvataggio aereo da parte di un pilota che si cimenta in un'evoluzione straordinaria, salva delle vite, tantissime vite, più o meno penso tutti quelli che stavano su quel volo, ma poi viene accusato di avere dell'alcol, tracce di alcol nel sangue, e quindi immagino che Zemeckis metterà in piedi una legal thriller, non lo so che film sarà, insomma, però mi sembra abbastanza interessante. Ho visto parecchia tensione emotiva in questo trailer, non so se hanno fatto ad hoc il trailer per catturare l'attenzione, visto che è un po' uscito dal nulla questo Flight, però non lo so, a me è piaciuto, non so voi cosa ne pensate. Insomma, anche può vedere, come dire, Denzel Washington in un ruolo diverso dal solito poliziotto, potrebbe essere interessante. No, io consiglio di non guardare assolutamente sto trailer, perché è uno di quelli che durano un'eternità e c'è tutto il film. Non è che mi fai vedere l'incipit, insomma, un pilota che si è imbriacato e ha salvato la vita a 120 persone. No, non è proprio così il film, però più o meno è quello. Dammi solo un assaggio, no, lo fa vedere tutto, fa vedere quello che succede dopo, lui che non era veramente ubriaco, e quelli che hanno fatto tutti i test e i simulatori hanno ucciso tutti, poi lui che in realtà sì era ubriaco, vabbè, ma scusa, non mi fa vedere l'ultimo minuto, ma mi ha fatto vedere tutto, non lo so, non, mi dà già fastidio, non il film, però un po' sì. Sì, un po' da quel punto di vista è un po' una porcata, perché veramente... La storyline del film sembra già tracciata dall'inizio alla fine. Eh sì, tu non... invece... Vai, dimmi. No, non ho neanche la sorpresa di metà film, i famosi due colpi di scena di una sceneggiatura, li so già tutti. Non avrò nessuna sorpresa durante il film, quindi vabbè. Mi vedo il trailer e ci spendo anche meno soldi e tempo, perché è 2 minuti e mezzo, quindi boh. Eh sì, sono d'accordo. Intanto appunto troppo lungo, non solo perché mostra tutto, ma che insomma... Per una volta poteva andare bene un trailer più standard. Poi sì, come dicevi tu, è interessante che Zemeckis, insomma, abbandoni fortunatamente un mezzo e provi con una cosa abbastanza diversa. Mi sembra un film, tu hai detto, non so come l'hai etichettato, come genere, comunque sì, drammatico, forte come storia, no? le vite sulla coscienza, la responsabilità, insomma, il colpo di scena che purtroppo è rovinato. Quindi sembra non solo una svolta, ma anche un avvicinarsi a un genere un po' più impegnativo, quindi chissà. Sì, sono un po' di curiosità, c'è quel poco di curiosità che c'era, però in effetti la moscia il trailer, che davvero... Poi guardo un po' in giro, vedo le trame, i riassunti, quello che gira, che come dicevi tu è poco, non se ne sapeva tan granché. E poi arriva il trailer che ti fa vedere tutto, e di conseguenza poi chi ne parla, i siti di cinema in generale, riprendono la trama che vedono nel trailer, quindi anche loro diffondono, quindi è un circolo vizioso, alla fine arrivi in sala e appunto ti manca solo il finale. Certo. Vabbè, penso che possiamo chiudere qui con i trailer. Passiamo al primo argomento di questa puntata. Ce lo introduce Le Monk. Va bene, però la morale di Flight è che si guida meglio ubriachi. Vabbè. Senza dubbio. Allora, estate, caldo, non si ha voglia di fare niente, non esce più nulla. E allora parliamo di una rubrica nuova, uno speciale su... Un pezzo che ha scritto il Mereghetti, che non ha bisogno di introduzioni, è quello che fa i dizionari. Il Mereghetti ha pubblicato, mi sembra che sia il secondo, o ne ha fatti anche altri, di speciali sul cinema, sulla rubrica contenitore La lettura del Corriere della Sera. Questa volta, dopo essere presa con la critica un po' populista, e anche il cinema populista, che la critica deve sempre osannare tutto e guai a massacrare giustamente quello che appunto merita, questa volta se la prende con, in un certo senso se la prende con la critica 2.0, cioè la cinefilia anche in questo nuovo millennio. Da una parte sì, se la prende con quest'epoca di YouTube, dei blog, delle chat, dei forum, eccetera, in cui ognuno si fa il suo giardino, il suo orticello, come dice lui, privato, per cui io faccio il mio blog, parlo delle mie cose, soprattutto sono sempre cose di genere, c'è chi parla dell'horror, c'è chi parla dei film del passato, c'è chi parla dei blockbuster e non parla mai dell'altro, e soprattutto non ha mai un rapporto con gli altri, ognuno ha il suo blog, ognuno parla per conto suo, non c'è un dialogo e vanno avanti così. Questa è la sua prima critica. Essendo la gente non andando più al cinema, non avendo più un confronto con altre persone, delle discussioni vis-à-vis, da questo punto di vista io non credo che lui sappia bene di quello che parla, perché in seguito nell'articolo dice anche che Una volta c'erano discussioni ferocite, c'erano solo amici o nemici, non c'era soprattutto una via di mezzo, inferni o paradisi, o si ama una cosa o la si odiava, si prendevano vere e proprie posizioni, invece adesso uno dice la sua, poi se ne va e non ascolta neanche quello che dicono gli altri. Essendo noi figli del forum sappiamo benissimo che questa cosa non esiste, anzi, ancora adesso ci sono delle battaglie che credo che i critici del Cahiers du Cinéma si sognano, risse incredibili. Quindi da questo punto di vista credo che sbagli. Ha ragione nel dire che anche solo guardare i film a casa propria, vederli su, ma sì, anche su YouTube perché ormai legalmente ci sono, scaricarseli, il DVD, il Blu-ray, eccetera, te li guardi a casa, non vai più in un luogo con altre persone, quindi non impari nulla dal confronto con gli altri. Però appunto, lui non conosce i forum, è evidente questo. Sì, tutto che sei stato bannato da 8000 forum invece. Esatto. Sai bene che il confronto c'è ed è anche abbastanza infuocato. Non so, vuole parlare di Intrinsico, vuole dire la sua... Sì, beh, volevo aggiungere semplicemente che sembra come al solito Merighetti, che comunque è un critico che tra i tanti apprezzo, sembra un po' che spari sempre a zero su un certo tipo di cinema, su un certo tipo di pubblico, un certo tipo di approccio al cinema, e anche qui sì, un po' anticipato già lui, quello che volevo dire, non sembra conoscere quello che, di cui parla, ma più che altro sembra una critica a priori, cioè YouTube è il male, i blog sono il male, il forum è il male, ma... Poi sembra sempre lo stesso discorso che torna ciclico, cioè come dire adesso sì, tutti chiusi nei blog, tutti da soli, sì, insomma è come il critico nella Torre d'Avorio di una volta, cioè sono i soliti dibattiti che magari i critici di adesso una volta facevano i critici di prima, ci sarà sempre la generazione che ha da ridire, ma adesso il cinema non è più come una volta, e poi appunto non è vero che c'è questa chiusura, sì ci sono, come appunto c'è anche nell'ambiente della critica la chiusura, però... Ci sono un sacco di blog che collaborano, le doppie recensioni, le triple, le quadruple, cioè io scrivo un po' sui blog, leggo molto e vedo che ci sono le iniziative, di blog in blog si passa con un argomento, si dice ok, recensiamo tutti gli horror degli anni 90, sì, sempre lo stesso genere, però intanto c'è comunicazione, c'è anche un bel atteggiamento, non per forza aggressivo. E poi YouTube, non ho capito, cioè, quello di cui parla l'articolo mi sembra più specifico, si parla del film frammentato, del tipo di cinema televisivo, sì, non è che guardiamo tutti i film su YouTube a pezzi di 10 minuti, cioè chi dice su YouTube c'è tutto intende dire sì ci sono i film interi, non è che venga usato così YouTube, c'è chi lo guarda a pezzi, ma cosa significa? È solo un modo per diffondere un film che magari altrimenti non troveresti, per il resto si usa per le scene, per parlare a un pubblico. Il suo discorso è quello che siamo in un'epoca in cui puoi vedere qualsiasi cosa, sia che la metti su Blu-ray, su DVD, la vedi su internet, molti film hanno perso i diritti, quindi si possono vedere anche legalmente. Però siamo esposti in una maniera incredibile da qualsiasi epoca e film che possiamo rivedere. Quindi, nonostante siamo in quest'epoca favolosa, ci sono quegli studenti di stampo universitario che, giustamente, non hanno il tempo, e allora si vanno a vedere il film a Bocconi, a Francobolli, eccetera, e lui critica questo. Poi ovvio, c'è la gente che si guarda tutto e sono quelli che collaborano tra forum, però è vero che i giovani vanno su YouTube a vedersi la scena, lui parla di Pulp Fiction, si imparano a memoria certe battute o si credono esperti di cinema, è quello. La cinefilia non è quello. E guardarsi un film intero, infatti lui dice, ma dov'è finita la visione intera, cioè la visione intera del film, quello, l'interezza dell'opera, il suo ritmo, sì. Il suo andamento. Vabbè, quello non lo fa il cinefilo, cioè non ne conosco di veri cinefili che vanno su YouTube a vedere le scene e impararsi la memoria, quello lo fa un tipo di spettatore che comunque non avrebbe visto il film, io non credo che sia cambiato nulla in questo senso, anche... Il fatto di specializzarsi in un genere, il fatto che hai più disponibilità, più accessibilità ai film, ti fa automaticamente andare dritto verso l'horror, verso un tipo di cinema. Non credo, secondo me è una critica, non so, è un po' viziata, non sono d'accordo. Anche questo discorso di YouTube, ripeto, secondo me i cinefili ci sono oggi come allora, i veri cinefili se vanno su YouTube per vedere il film intero perché non hanno altri modi di farlo. Lo spettatore casuale che riesce a vedere un film spezzettato è come quello che lo guardava in TV una volta. Non credo che siano cambiate le dinamiche. Sì, ma che poi questa volontà di attribuire un dogma alla cinefilia, ognuno la interpreta alla sua maniera. Certo. Anche chi dice eccellenti come il Morandini, non capisco allora perché non è citato il Morandini, che ammette candidamente da anni di uscire a tre quarti di film perché già sa come andrà a finire. Poi ci rifila il dizionario ogni anno, insomma. La cinefilia non è dogmatica, insomma, ognuno la interpreta a sua maniera. Il fatto comunque di avere su YouTube la possibilità di recuperare film che magari è impossibile recuperare in altra maniera, secondo me sono una cosa positiva. Poi ovviamente, come dice lui, effettivamente la visione spezzettata è un metodo che nemmeno io condivido, cioè un film se lo stoppo molto probabilmente lo rivedo dall'inizio, perché c'è anche un certo piacere nel vederlo tutto in un'unica soluzione. Poi vabbè, non lo so, a me dell'articolo non è tanto piaciuta la chiusura, insomma, perché, cito testualmente, dice: non abbiamo bisogno di nuovi profeti ma di nuove profezie. E qua, insomma, mi sembra un po' il critico, come dicevi tu, che si arrocca nella sua torre d'avorio e non vuole avere contatti con, non vuole essere spodestato da altri, in un certo senso, perché lui è il primo profeta, nel senso che il Mereghetti mi sembra che per anni abbia venduto il suo nome a destra e a manca, insomma. Magari quel nome se l'è anche fatto con tanta gavetta, e non dico questo, però insomma, perché venga a parlare lui di profeti o comunque di falso protagonismo mi sembra un po' un'esagerazione. E l'ultimo paragrafo di quest'articolo mi sembra un po', come dire, difendersi dai bloggers perché non sono veri critici, veri giornalisti. Magari è anche vero che la rete dà un po' voce a tutti quanti e senza criterio, del resto la dà a noi voce, quindi figuriamoci. Vabbè. Però sì, insomma, non... leggendo l'articolo avevo più speranze prima, in cui diceva che effettivamente la cinefilia può trovarsi ovunque, anche sui blog, però poi fa quella chiusa, insomma. Beh, però... parla di orticelli, ma non lo so. Ha ragione quando dice che non si dimentichi mai di mettere in primo piano le opere, e invece dimenticano questi qui. No, allora, sì, sto leggendo sì. male la riga. Sì, comunque dice che insomma, questi qui, di difendere la propria posizione più che di parlare del film. Questo è vero, ma questo sì. succede adesso come succedeva alla sua epoca, però. Sì, sì, però appunto, prima parlava di confronto in cui ognuno difendeva la sua posizione in maniera ossessiva, quindi vabbè, ci sta, quello succede in politica. C'è un po' di contraddizione di fondo in tutto l'articolo, secondo me. È un po' retorico, è un po'... Ai tempi si parlava di cinema, e quindi in primo piano c'erano le opere. Adesso, faccio solo un esempio tra i molti, io Toby, tu vai a vedere la recensione perché lui ne parla in quel modo, perché il protagonista è lui, non parla più delle opere, ne parla anche malissimo, ne parla di robaccia, è quello per me che lui vuole parlare, di questi nuovi profeti, di questi nuovi critici che si credono critici invece... Per favore, si credono dei comici, loro i protagonisti, quando non parlano mai di nulla, se non allora, però a quel punto non stiamo più parlando di cinefilia e di critici, perché insomma quelli sono fenomeni da baraccone dell'internet. Loro si credono tali, quindi lui, parlando di cinefilia, deve parlare anche di loro. No, perché comunque su internet si trovano anche tanti critici che invece fanno il loro lavoro, ma anche in televisione. Certamente. Alla fine del buono si può trovare ovunque, insomma, non lo so, mi ha convinto, non me l'ha venduta a sto giro, nonostante io l'apprezzo. Sparare a zero sul mezzo, sembra tanto un pregiudizio del vecchio critico che, sì, ha degli spunti indubbiamente interessanti, su qualcosa si può anche discutere, però sembra una presa di posizione contro un futuro che sì, ha dei problemi, ma ha anche tanto di positivo, quindi... Credo che ci si chiudesse anche prima, che ci fosse il critico personaggio anche prima. Cioè, è che in Italia c'è un certo tipo di critica, i vecchi critici grigi, però nel resto del mondo c'è sempre stato il critico che doveva fare il personaggio, il profeta, sono io e poi c'è il film. È sempre stato così. Sì, sì. È solo diventato più accessibile il cinema, con tutte le dovute conseguenze, positive e negative. Questo certo. È certo. Non lo so, passiamo alla prossima, prossimo argomento, o Monco vuole aggiungere qualcos'altro? No, vai avanti. Ok, Ma guarda, la butto lì, oggi è il compleanno di Paul Thomas Anderson. Ah, vedi? Vedi, caschiamo proprio a fagiolo, siamo sempre sul pezzo noi. Oggi 26 giugno è il compleanno di Paul Thomas Anderson, alla grande. E come dicono sempre i nei programmi italiani, ciao Paul Thomas, perché tu ci ascolti sempre, lo sappiamo. Sì, sì, lo sappiamo. Che ormai ci troviamo alla fine di giugno, volevamo un po' tirare le somme sul primo semestre di questo 2012 e confrontarlo un po' anche con i semestri precedenti. Allora, buttiamola subito lì. Quali sono secondo voi i migliori film del semestre, diciamo i migliori tre, per non divagare troppo, e un breve commento sul semestre. Iniziamo dal Monco, dai. Ah, non sono preparato, non c'ero in questo semestre. A casa la sapevo. Ecco, tempo fa su Twitter ci hanno chiesto, ciao, seguiteci su Twitter, qual è il miglior film di questo anno, 2012? Ecco, io ero totalmente impreparato, vado al cinema praticamente ogni settimana, riesco a vedere tutto quello che voglio, anche quello che non vorrei, eppure non mi ricordavo praticamente un cazzo, e in confronto agli altri anni non era mai successo. Arrivati a giugno io avevo i miei film, le mie scelte, molti erano quelli che arrivavano in Italia con il ritardo dovuto agli Oscar, però quest'anno niente. Alla fine sono uscito con un Quasi Amici, che sì, forse credo che sia il migliore di questo primo semestre, insieme all'Arte di Vincere. Per il resto io non riesco ad arrivare al terzo. È vero che non ho visto Diaz, è vero che non ne ho visti tanti, però per ora niente, ammetto che è qualcosa di buono. Nemmeno un gruppetto di terzi? Ma ammetto che appunto c'è qualcosa di buono, Quella casa nel bosco, molto forte, incredibilmente vicino, Romanzo di una strage, però... Nessuno che emerga, insomma, tutti rimangono nel gruppetto e non si elevano. Sì, esatto, per ora niente, in confronto al 2010-2011 non riesco... A trovare un podio. Poi vabbè, arriverà l'inverno, ok, però per ora davvero okay. Buah. Vai, intrinseco, dici la tua invece. Sì, allora io non faccio meno fatica, nel senso che un paio che mi hanno, per ora mi tranquillizzano sul futuro, ci sono. Poi io volevo aprire una parentesi, che secondo me già dall'inizio questo sarebbe stato l'anno dei blockbuster, almeno vedendo i trailer che giravano, le news, mi aspettavo più di quel materiale. Poi qualcosina secondo me per ora è uscito. Intanto io metto, diciamo, proprio per dirne tre a fatica, direi Cosmopolis, non un po' perché ce l'ho più fresco in mente, sarà questo, ma comunque secondo me è all'altezza dei film d'autore dell'anno scorso, quelli che hanno lasciato il segno, comunque degno di essere ricordato, ne abbiamo già parlato, quindi sorvolo. Poi Diaz, che purtroppo è stato visto da pochi, ha girato poco, ma è un film poderoso, un buon segno per il cinema italiano, finché mi ricorderò, se non altro perché è un bel film indigesto e fa male. E poi ecco il terzo, anch'io mi trovo in difficoltà, non tanto perché non ne trovo, ma perché se dovessi trovare una terza posizione farei fatica. Tu hai detto La Talpa e forse ci metterei La Talpa, ma poco per doverne scegliere uno. In effetti è il film, sì, non niente di memorabile, però prodotto elegante, che ricorderò almeno in questo primo periodo, ammesso che non esca altro che mi faccia dimenticare. E Shame? Shame l'ho un po' rivalutato col tempo, era tra i passabili per il terzo posto. Shame, La Talpa, il film dei Muppet che ho visto in aereo per New York, quindi già questo lo eleva, ma è comunque un bellissimo film, ritorno ai Muppet al cinema, poi un'operazione... interessante, come si chiama l'attore di How I Met Your Mother? Jason Segel, che ci si è messo, ha fatto di tutto e ha fatto uscire questa cosa bellissima, insomma anche lui ha avuto la sua parte di merito e lo adoro per questo. E sì, Quasi Amici è anche passabile per la terza posizione. Poi anch'io ammetto, c'è roba che non ho visto. Per esempio, mi manca una lacuna che vorrei colmare. Cesare Deve Morire, che a quanto pare è un altro buon segno del cinema italiano, che non sta morendo, dai, diciamolo. Quest'anno, sì, secondo me, insomma, tra Acab, che non mi ha fatto impazzire, ma insomma, è un bel film, Diaz e questo, io direi che si può ben sperare. Sì, sì. Ma anche Romanzo di una strage, sì, non ne ho sentito parlare mai. È vero, ho dimenticato. Sì, meno quel finale, insomma, chi l'ha visto capirà, è un po' revisionista, un po' paraculo, per cui perde qualche punto, però è anche quello un vagito. E vabbè, dico pure la mia, quella talpa che ti ho messo al terzo posto per me invece sta al primo, perché l'ho trovato un film, come dicevi tu, molto elegante, impreziosito dalle performance di un cast veramente in stato di grazia. Spesso si abusa questa espressione, invece in questo caso mi sembra perfettamente calzante. Il mio secondo posto invece C'era una volta in Anatolia, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, quindi non mi dilungo troppo, che qui grande eleganza tecnica e grandi performance. Come dicevate anche voi, il terzo posto è composto da un gruppone di film, forse quello che mi ha colpito un po' di più di questo gruppone se la giocano Millennium e L'arte di vincere, Moneyball. Millennium perché è un thriller girato alla maniera che mi piace tanto, ho trovato qualche attinenza magari anche con sia con La talpa che comunque con L'uomo nell'ombra del 2010 o 2011, non me lo ricordo, vabbè. Soprattutto perché sono film thriller abbastanza diversi tutti e tre, però c'è un gusto per la componente scenografica e per la fotografia dai toni algidi che a me sinceramente fa impazzire, quindi diciamo che al terzo posto io ci piazzo Millennium, anche perché non ho visto l'origine, non ho letto il libro, quindi la componente trasposizione mi interessa ben poco, però è un gran bel film, grande Fincher, sempre migliore, insomma. È stato un po' e doveva essere il, come dicevi tu, il semestre del blockbuster di Avengers, che sì, è stato buono, però insomma non mi è sembrato sto granché. Però mi sembra che le uscite dei blockbuster si addensino nel secondo, sì, sì, semestre. Infatti ho detto l'anno dei blockbuster, sì, perché poi sì, chiaramente poi spostando Prometheus ha anche un po' cambiato le cose. Però comunque a fine anno ci troviamo L'Hobbit, che chissà se non slitta, poi Prometheus, The Dark Knight, insomma. Ecco, le aspettative per il secondo semestre quali sono più o meno? Inizia tu, visto che hai preso parola. Sì, insomma, ci spero ancora in Prometheus, anche se leggo sempre cose meno belle, però insomma, Ridley Scott, non posso non provare attrazione. Poi The Dark Knight, che insomma, non so, ne abbiamo già parlato, io non sono una fan urlante di Nolan, però più passa il tempo più li aspetto questi film, non lo nego. E, oddio, ce n'era anche una, vabbè, L'Hobbit, la mia debolezza, Tolkien e Peter Jackson mi fanno venire le paturnie, quindi diciamo che sì, probabilmente è quello che aspetto di più, e su quello non ho molti dubbi. Su Prometheus te l'ho detto, già sono un po' meno sicuro. Dark Knight ho i dubbi che avevo all'inizio, ma ci voglio credere, quindi caldamente ottimista. Il Monco? Non mi piacciono i blockbuster e non guardo al futuro, quindi non ci vedo nulla di buono. Ma poi tanto il mondo finisce. Però sembra anche che quest'anno sia peggiore dell'anno scorso, perché Cannes, vabbè, magari ancora un po' presto, però Cannes non è stato a livello dell'anno scorso. Vabbè che c'era Tree of Life e basta quello per 10 anni. Però per ora mi è sembrata un'edizione un po' minore. Magari c'era anche Abemus Power l'anno scorso a Cannes, sì, vero? Sì, sì, ma c'era anche Drive, nel senso che poi sarebbe uscito nel secondo semestre. Sì, secondo me è un bellissimo anno. Invece molti film escono dopo, no? Quelli di Cannes. A parte Tree of Life, che l'abbiamo visto relativamente presto. Però di solito in Italia, ma anche nel resto del mondo, i film di Cannes li vediamo dopo. Infatti la maggior parte ci mancano. Abbiamo avuto l'esempio di C'era una volta in Anatolia, che era stato premiato l'anno scorso a Cannes, ed sì, è uscito solo oggi, quest'anno. Poi è vero che probabilmente non è proprio all'altezza di, perché comunque Tree of Life e Drive già elevavano di parecchi punti, però quest'anno, mi ripeto, lo so, Cosmopolis, però insomma, merita attenzione. Poi c'è il figlio di Cronenberg, che a quanto ho capito ha fatto un bel film anche lui, ma è, se non sbaglio era fuori corso. E bisogna vedere Mann, bisogna vedere... Insomma, manca ancora un po' di roba, però è vero, se a conti fatti, secondo me, alla fine potremmo dire che non è stata un'edizione altrettanto memorabile. Bisogna vedere anche il nuovo film di Haneke, che non sì. so quando e se uscirà in Italia. So che a Milano hanno già fatto le proiezioni, proprio mentre c'era Cannes, comunque in Italia si fa, però cinema, ma boh. Sì, però invece... il mio discorso era diverso. Sì. Non sto dicendo che... Ok, non l'abbiamo ancora visto e quindi è difficile giudicare, però l'anno scorso, anche non avendoli visti, dicevamo, ammazza, io non vedo l'ora che esca XXX. Quest'anno, io, vabbè, non l'ho seguito magari moltissimo, però, a parte quelli che avete detto, non sto aspettando chissà quando esce Tot. L'anno scorso c'era anche quello di Sorrentino, per sì. dirne un altro. È stata una bellissima edizione e ha aumentato il valore del 2011. Quest'anno, boh. Non mi sto aspettando nulla da Cannes. Però è anche vero che Cannes forse ha avuto una risonanza mediatica minore quest'anno, perché ad esempio un film come Moonrise Kingdom, il nuovo film di Wes Anderson, è stato idolatrato, tutti quanti si sono sperticati in lodi a destra e a sinistra, poi però, siccome era un film d'apertura, tutti se lo sono dimenticato. E, insomma, io sinceramente lo aspetto... con ardore, perché a me Wes Anderson piace. Anche io. In Italia sarà distribuito il 5 dicembre 2012 dalla Lucky Red, quindi bisogna ancora aspettare parecchio. Ci tocca. Vabbè. No, comunque ho premesso che non ci sono grossi calibri, questo sì, sono d'accordo. Dico, sul resto non mi esprimo perché, come dicevamo, li vedremo dopo. Poi è vero, sicuramente a festival finito non avevo la stessa curiosità, come... Non è possibile, sì, non c'è paragone, questo è vero. Certo, è l'anno di Dracula 3D, però quello arriverà. Ecco, magari non c'è stata nemmeno quell'onda lunga dei film premiati agli Oscar che c'era stata l'anno scorso, perché comunque Il Cigno Nero, Il Grinta, 127 ore, sono usciti tutti nei primi mesi del 2010 piuttosto che... negli ultimi nei primi mesi del 2011 piuttosto che negli ultimi mesi del 2010. Invece quest'anno, a parte i più importanti, sono usciti tutti quasi a ridosso dell'uscita americana, ma anche agli Oscar, insomma, non è che si è vista tutta sta qualità spezzare. No, ma però è vero, cioè, quest'anno stranamente siamo riusciti a vedere quasi tutto prima, cioè, sì. È una cosa mai successa. Tutto, tra virgolette, perché certi film non sono credo neanche arrivati, o comunque non li hanno distribuiti. Tipo, mi viene in mente Albert Nobbs. Sì. Okay. No, è stato distribuito, però sarà passato veramente in 2-3 sale, una cosa del genere, quindi... Vabbè, non che fosse questo capolavoro, però... Allora passiamo ai film usciti venerdì scorso al cinema, ne abbiamo visti tre, o meglio, tutti e tre abbiamo visto Detachment, io ho visto Rock of Ages, il Monco ha visto Chernobyl Diaries. Quindi, iniziamo con il primo, il film con Adrien Brody, dal regista di American Historix, ce ne parla il Monco, Detachment. Ah, io? Un po' marzulliana questa introduzione. Ho visto anche vai. Chernobyl Diaries, quindi dopo se ne vabbè, però ti tocca Detachment, quindi. No, nel senso, hai detto per dopo. Alla grande, c'è il confronto anche su Chernobyl Diaries, ok. Allora, sì, dunque, Detachment di Tony Kaye, non so come si pronuncia, già detto, regista di American History X, che evidentemente è stata una parentesi felice che sia presto conclusa. Dunque, la storia di Henry Barthes, che è un insegnante, insomma, un tappabuchi che viene passato di scuola in scuola a colmare i buchi lasciati da altri docenti, e finisce in questa scuola, che non so se esiste realmente, comunque, che è un concentrato della teppaglia di un'intera area, quindi c'è la peggior gente che potrà incontrare. Lui è un idealista, è il classico insegnante che vuole cambiare le cose, quello da l'attimo fuggente che... sale sulla cattedra e dice: ragazzi, dovete amare la letteratura. È peccato che il film sia una vera boiata, è il corrispettivo americano di Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller, non so se ve lo ricordate. Sì, sì. Il livello è quello. Sì. Ci manca solo il temino finale. Senza l'autoironia, però. Sì, appunto, il problema è che questo non è una commedia, o almeno se lo è, forse io non ho capito nulla, e allora è un'ottima commedia, perché il problema è proprio questo. E, intanto i dialoghi, che sono forse la cosa fantastica, ci lamentavamo di Paura 3D, ma questo è la fiera del didascalismo, cioè dire tutto quello che il personaggio sta pensando, come sta pensando, perché lo sta pensando, e intanto sullo schermo c'è questa lavagnetta su cui compaiono le immagini che ribadiscono il concetto, e poi questa colonna sonora che deve ribadire anche l'atmosfera, quindi didascalica anche quella, e poi è di un'ingenuità spaventosa, e appunto ti fa dubitare del fatto che stai guardando un dramma, perché non sai come interpretarlo. Sono questi docenti, questi studenti che appena lui entra in classe dicono: ah, sei una merda, dammi il foglio, non voglio fare questo, non voglio fare quello, taglio di scena, professore, lei ci ha cambiato la vita, non se ne vada. E tu dici: ma che società hanno tagliato? No, è proprio così, è tutto così. E lui legge Edgar Allan Poe, legge Camus, e queste citazioni sbattute in faccia, l'educazione in crisi, e i docenti perdono fiducia. Però detto così, come lo sto dicendo io, cioè te lo spiegano, nel caso non fosse ovvio. E tu dopo un po' ti lasci andare e perdi interesse, perché non c'è nulla di interessante. È tutto qui. È un film, davvero, non mi spiego questi voti, ha una media davvero discreta su internet, non dappertutto. Però sull'internet italiana, perché Rotten Tomatoes l'ha sparata sul 48%, mi sembra. Sì, IMDb non conta, quindi quel 7-7 lasciamo lì. Però comunque qualcuno gli ha dato dei voti sopra l'8. Sì. Un cast ricchissimo, poi, che poteva essere anche una buona arma. C'è Christina Hendricks, che vabbè, non interessa per le doti recitative. James Caan, che fa un personaggio, non so, insopportabile, almeno per me. Adrien Brody, che sembra quasi recitare, ma tanto si è sprecata in questo film. Marcia Gay Harden, e c'è addirittura William Peterson, ve lo ricordate, in CSI, è ingottato, è ancora sordo. Brian non parla, cioè appare in due, sì, immagini, ma... Ancora peggio Bryan Cranston, che compare in 2 minuti di scena, cioè, 2 minuti sono tanti, è un'altra scena. Sembra un film di Lynch girato da un imbecille. Cioè, la cosa straniante è loro che dicono: il nostro matrimonio è in crisi, non ci parliamo più, non facciamo più l'amore. È davvero insopportabile. Poi, per chiudere, una scena fantastica, uno dei professori, che è interpretato da Tim Blake Nelson, che era in Fratello dove sei, dei Coen, che fa il docente in crisi, più in crisi di tutti, che torna a casa, c'è la moglie che guarda la TV, il figlio al computer, una luce rossastra, lui cerca di parlare e loro non gli rispondono, è l'incomunicabilità. Cioè, addirittura, neanche Antonioni, cioè, è proprio una cosa fantastica. Eh? Una commedia, una black comedy girata da un regista del Dogma 95, non so se l'avete notato. Sì. La telecamera che si muove, titoli di coda sulla lavagna, quindi solo la musica extradiegetica. È una violazione, potrebbe essere un film del Dogma 95, perché lo faccio appena. Sì, vabbè, io concordo su tutto, anche perché l'ho già detto nella recensione, ho detto fino alle stesse cose tue, quindi non so se il buon cuore aggiungere benzina sul fuoco, insomma. Che sono passati 4 giorni e l'ho già dimenticato. ma io dico che qualcosa di buono ci sarebbe anche, solo che è sommerso da uno stile teatrale dove tutto è esagerato, avete detto appunto degli studenti super aggressivi e super sboccati, ti faccio inculare dalla mia gang di negri. No? Beh, io sono stato in Unitis, io quella gente lì l'ho vista, non è così, è lievemente migliore. E poi è tutto sommerso anche da questa paternale ai genitori di oggi, badate ai vostri figli, noi insegnanti non possiamo farci niente, non possiamo neanche toccarli, non possiamo stargli vicini, dovete pensarci anche voi, invece a casa sono delle famiglie che non gli danno retta. Io però sono fiducioso per il seguito, Attachment, che non sembra una battuta, ma è vero, uscirà l'anno prossimo e sarà la storia di una insegnante che va a letto con un suo studente. Quindi questa volta l'attacco ci sarà, altro che distacco, ma attacco dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Anche lì, stiamo facendo sesso, sarà giusto? Lasceremo giudicare i posteri. Continua così che mi piace. Sì. Vabbè, io come ho detto già nella recensione, se volete vedere un film che analizza le dinamiche di classe in maniera un po' più lucida, guardatevi la classe di, non so se siete d'accordo, la classe di Lauren Cantè, non so, se, Lauren Cantè, come si pronuncia? Vabbè, Cantè. Cercate la classe, Cantè, Cantè, Lauren Cantè, che secondo me è un gran film e... è molto più sottile dei sentimenti urlati di The Dutchman. Ma forse quella scuola lì è la stessa di American History X ed è rimasta sconvolta per quello che succede alla fine di American History X. No, no, no. Non lo so perché non l'ho visto. Non hanno ancora pulito il bagno. Che ridi, non l'hai visto. Vabbè, però fa ride, dai. Passiamo, non lo so, al prossimo film? Dai, ho visto... Ho visto solo per voi Rock of Ages, dico solo per voi perché normalmente non sopporto i musical, non sopporto nemmeno gli stacchetti musicali dei film Disney, figuriamoci un film totalmente incentrato sugli stacchetti musicali. Ma è Disney questo, sì? No, non è Disney. Ah, no? È di Adam Shankman, già regista di Hairspray, con John Travolta che fa la cicciona. Allora... la trama è molto semplice, parla di questa ragazza, la campagnola, che arriva dall'Oklahoma, arriva a Los Angeles e subito si innamora di un ragazzetto che fa il barista nel leggendario locale Bourbon Room, che sta al centro della scena rock anni 80 di Los Angeles. In un certo senso, dal punto di vista narrativo, vorrebbe ficcarci tante cose Shankman in questo film, però tutti gli elementi narrativi sono abbastanza, tutte le storyline, le sottotrame sono abbastanza abbozzate. C'è questa storia d'amore che è un po' il leitmotiv del film, poi ci vorrebbe ficcare la storia dei ferventi religiosi che cercano di annullare il movimento rock. Ci vorrebbe mettere in mezzo pure una critica alla musica pop, che insomma non c'entra più o meno niente con l'argomento. E niente, ne parlavo anche con... Io non sono neanche un appassionato di rock, hard rock, insomma di tutti i sottogeneri che appaiono nel film. Però, non lo so, anche a me, ma poi ho chiesto conferma a un amico appassionato di musica, mi è sembrato che proprio a livello di pianificazione non fosse ben chiara il cosa vogliamo dire con questo film, perché mischia tante correnti del rock che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Faccio l'esempio, si parla sia di hard rock che di glam rock, quando ad esempio i Guns N' Roses, ho letto che col glam rock non c'entravano niente, ma addirittura odiavano il glam rock, quindi... ci ficca anche il discorso sulle pop, sulla musica pop, come a voler, sulle boy band degli anni 90, come a voler dire sì, insomma, quella è musica commerciale, quando poi comunque nel film appare il lato più commerciale del rock, ovvero Guns N' Roses, Journey, John Bon Jovi, e quindi insomma c'è un po' di confusione su quello che si voleva dire, si voleva raccontare con il film da questo punto di vista. Detto questo, nonostante le canzoni siano comunque belle canzoni, soprattutto per chi apprezza il rock, e le performance sono un po' stile Glee. Infatti c'era la recensione di Battista che secondo me ha centrato il punto, ovvero che è un po' una gleeizzazione del rock questo film. E tuttavia, nel mare di queste performance non esattamente esaltanti, c'è la performance di Tom Cruise, che è veramente eccezionale. Nel film interpreta la rockstar Stacey Jax, che fa il verso in maniera abbastanza lapalissiana, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista dell'interpretazione, a Axl Rose, il leader dei Guns N' Roses. Quello che non mi spiega è come lui abbia sia dotato di grande autoironia, perché altrimenti non avrebbe potuto interpretare questo personaggio. Però poi all'esterno, quando fa quelle interviste su Scientology e tutto il resto, questa autoironia svanisce. E questo ruolo è un ruolo di grande fisicità, è bravo anche a cantare, quando fa lo stralunato è fantastico. Secondo me Tom Cruise vale da solo il prezzo del biglietto per questo film. Però, sbagliato questa mia teoria, se siete appassionati di rock, più siete appassionati di musica e di rock, più lo schiferete, perché ci sono delle cose, delle interpretazioni stile Christina Aguilera che veramente fanno calare il latte alle ginocchia, insomma. Ho una domanda. Dimmi. Siccome ritengo Catherine Zeta-Jones una brava attrice, ha pure vinto l'Oscar, e che sia molto sottovalutata, qui com'è? Gli viene lasciato poco spazio. La sottotrama della fervente religiosa che vuole mettere i bastoni tra le ruote ai rocchettari magari ci stava anche, però è praticamente una macchietta all'interno del film. Canta una, due canzoni, nemmeno particolarmente brava, insomma, a cantare, ma è abbastanza anonima in questo film. La particolarità è che il marito di Catherine Zeta-Jones, che poi è il sindaco della città, è Bryan Cranston. Praticamente ogni mese esce un film con Bryan Cranston, ormai è una cosa pazzesca. Allora, per forza. È stata per tutta. Se fa parte di due secondi come in Detachment, siamo bravi tutti. Ma pure ad esempio in John Carter appariva veramente due minuti di secondo, ormai fa la particina in ogni singolo film americano in uscita, sì. Beh, comunque io da appassionato, sì, senza vergogna, di musical ero anche interessato, solo che non sono riuscito a vederlo per tempo e quindi magari riuscirò a vederlo poi. Però appunto una delle mie paure era quello che fosse una roba alla Burlesque, il film proprio con Christina Aguilera, e tu mi hai confermato le paure, sì. Ecco. Almeno un paio di performance sono su quello stile lì. Però Dio, un pregio comunque ce l'ha, non annoia. Anche a me, che comunque tollero abbastanza poco il musical, non ha annoiato, anzi, mi sono anche abbastanza divertito. Ecco, magari la carne a fuoco è veramente poca, però non so che altro dire. Se voi avete delle domande, se no passiamo al prossimo film, visto che stiamo dilungando. Andiamo avanti. Allora, il prossimo film è Chernobyl Diaries, e ce ne parla il Monco. Vai. Sarò veloce perché non merita troppo tempo. Chernobyl Diaries è un horror dei soliti ragazzotti americani che vanno in un posto in cui non dovrebbero, questa volta i Pripyat, città dell'Ucraina, la più vicina al reattore V. Lenin, che esplose il 26 ottobre dell'86 a Chernobyl, causando quel disastro nucleare che siamo tutti a conoscenza, tranne a quanto pare dal trailer i personaggi del film. E insomma, vanno in questo posto, tutto va per la bene, insomma, si fanno un giro tra le case, fanno le foto, fanno anche una foto fortunatissima in cui intravedono qualcosa, una cazzata terribile, però ha tutto un buon ritmo. Poi cala la notte, succede, non riescono ad andare via da questo posto perché qualcuno ha rosicchiato i cavi del furgone con cui erano venuti, e nella notte viene fuori qualcosa o qualcuno che insomma scopriremo poi. Chernobyl Diaries è nel pieno stile di Oren Peli. Se avete visto i Paranormal Activity sapete benissimo chi è, cioè quell'horror in cui sembra dover succedere chissà cosa, sei lì tutto il tempo in tensione, chissà cosa succede, e non succede niente assolutamente, che da una parte io apprezzo perché sono stufo di queste esagerazioni, questi bagni di sangue, di gore, di splatter, di sceneggiature patetiche solo per arrivare a effettacce o cose del genere. Però dall'altra, insomma, sono cinque film di fila che non fai nulla, ma veramente nulla. Questa volta non è che non ci sia nulla, però ci si aspettava qualcosina di più. Il problema del film è proprio questo, che fa una cosa buona e ne fa subito dopo una cattiva. Ha un aspetto buono e dall'altra parte ne ha uno cattivo. Quindi non riesce ad essere un buon film perché ha un materiale ottimo. Tutti noi abbiamo giocato un gioco almeno ambientato a Chernobyl, o insomma abbiamo immaginato qualcosa lì a Chernobyl, che è un paesaggio spettrale, però appunto non riesce ad andare oltre questo buonissimo materiale, non riesce a fare un film decente, poteva anche benissimo essere un cult, non ci riesce, e dall'altra parte però rimane così mediocre che non scade in una cazzata, in una porcata tipica di questo genere con i ragazzotti, eccetera, l'americanata, insomma. Quindi, né carne né pesce, è lì, è un film che non lascia molto, anzi, lascia un senso di poteva essere di più. Se intrinseco la pensa così, o non lo so, vediamo. Sì, meno generoso. Tanto è la solita roba di Oren Peli, che questa volta ti prende anche un po' in giro, dice, è il solito POV, no, non è la telecamera ritrovata, però è girato come se lo fosse, è a tutti gli effetti un POV, perché c'è questa telecamera che si muove, sempre a favore, sempre in mezzo, sembra che sia un personaggio della scena, quindi stesse idee, ambientazione diversa. Poi sì, appunto, ottimo materiale, non dico sfruttato male, proprio non sfruttato, perché... Sì, anch'io avrei evitato la svolta splatter, perché comunque era bello farci un film d'atmosfera, però tanto devi fare la stessa roba, il buio, la telecamera che inquadra il bambolotto, tanto si vede nel trailer, e bam, dietro succede qualcosa, ti giri, c'è una sagoma e sparisce, cioè, stesse cose, davvero, di nuovo, ambientazione diversa. Poi non è una boiata che finisce in caciara, però è proprio, ci sono i classici buchi, le classiche forzature, c'è cioè roba proprio da fucilazione. Magari ho sbagliato io, magari ho perso l'attenzione, che è così appassionante. Comunque c'è un paio di situazioni davvero da presa in giro. Loro arrivano a Chernobyl mattina presto, ci vuole poco perché ci vuole poco, sono 20 chilometri, in un attimo è notte, e vabbè, tagli e tutto, ci sta. Però passa una giornata e una notte intera in un attimo, si alzano la mattina, vanno a cercare i cavetti della macchina, trovano dei cani, ritornano verso il furgone ed è di nuovo notte. Cioè, un conto fosse un film girato cinematograficamente in modo classico, cioè tagli e montaggio, essendo uno pseudo POV, quindi un film che sta dietro ai personaggi e li segue, non puoi dimenticarti della logica, cioè è proprio sfacciato. Poi lei che appunto fa la foto e se ne ricorda quando ormai la situazione è precipitata, forse avevo visto qualcosa in una finestra, non sono sicura. E poi c'è questa cosa del POV che è sbattuta lì, i due che rimangono nel furgone di notte, sta succedendo il finimondo, accendono la videocamera e si filmano, stai bene, la gamba è rotta ma stai bene, sì, oh, qualcosa sul vetro, e boh, me la catastro. Cioè devono metterci per forza il found footage, devono per forza metterci la stessa trovata della cosa che si vede solo quando la telecamera gira e non puoi capire cos'è stato, cioè, basta. Sì, non è un disastro, ma è proprio l'ennesimo film fotocopia. Poi non ha neanche girato a Chernobyl, dai, almeno andare lì, a Pripyat, no, a Belgrado sono andati. Perché per fare un film del genere non puoi rischiare di irradiarti, no? Invece magari è l'occasione buona per levarceli dalle scatole, vabbè. Io dopo questi pareri me ne terrò lontano, ma già me ne ero tenuto lontano perché il filone dei mockumentary mi ha veramente rotto i coglioni. Cioè, ma soprattutto ora in Peli avevo dato un'occhiata alla serie TV prodotta da Spielberg che avevano mandato in onda su Sky 1, The River mi pare, sì. E pure la roba atroce. Ho detto che migliorava un po' dopo, ma io non ho neanche provato. Ho capito, però cioè, di cose che migliorano un po' dopo ce ne stanno centinaia. Cioè, il passo logico, no? I film in più, facciamoci anche la serie TV. No? Sì. Vado a rivedermi Detachment piuttosto. è tutto dire. No, veramente restate a casa, non ci sto niente al cinema, quindi lasciate perdere. Deve esserci Prometheus, ma niente. No, meglio sta roba qua. Con questa competizione, come facevano a metterla adesso? Che sarà veramente, è pazzesco. Vabbè dai, passiamo ai film della settimana prossima. L'unica cosa che mi sembra interessante che uscirà è la cosa appunto. Sì, e poi il film. L'unica cosa è la cosa. E poi i tre marmittoni, ricordiamo. Sì. E Take Shelter, di cui abbiamo già fatto la recensione. Ah, ho scoperto che Take Shelter, col cavolo che esce la settimana prossima, dovrebbe uscire tipo... non lo so, non c'è. Okay. Esce il 29, ah sì, il 29 è venerdì, allora ho detto una cazzata. Eh no, perché la cosa esce mercoledì, che è il 27, quindi ti frega, no, è vero, ricordiamo, la cosa esce già domani. Sì, vabbè, forse ribadire l'ovvio, però la cosa è il remake del film di Carpenter degli anni 80, insomma. A sua volta remake, più o meno. Sappiatelo, sì, esatto. C'è Mary Elizabeth Winstead, che è ben più importante. Ottimo. E niente, poi anche Tre Marmittoni esce di mercoledì. Oh. No, ma no. Già oggi e fino a giovedì 28 c'è Le Iene al cinema. Solo nel circuito Space, quindi non dappertutto, però se ci riuscite. Vabbè, dicevo di Take Shelter, abbiamo già pubblicato la recensione di Intrinseco, però bene, parleremo anche nella prossima puntata. Intanto andate a leggervi la recensione. Il cammino per Santiago anche esce di Emilio Estevez con Martiscin. Marty Sheen, esatto, col padre quindi. E niente, Emilio Estevez che ricordiamo ha girato. Breakfast Club. Bobby. E? Non lo so. Il cammino di Santiago, Ah, appunto. ecco. Ah, tra l'altro esce anche la commedia francese per te, Monco. Ah, benissimo. L'amore dura da 3 anni. Ah. No, dura 3 anni. È un film su un uomo con un'erezione lunghissima. MyMovies dice che rievoca lo splendore del tocco truffautiano. Anche truffautiano, perché è una truffa. E vabbè, passiamo ai consigli. Ci avete qualcosa da consigliare? Qualche chicca? Dai, Intrinseco, dici. Ne li ho già consigliati in altre sedi, ma li consiglio. Sono due, velocemente, non dico nulla per non spoilerare, che sono molto belli. Uno è Triangle di Christopher Smith, scritto e diretto. Probabilmente in italiano non si trova, non si troverà mai, quindi sapete cosa fare. Poi Los Chrono Crimines o Time Crimes, che è un film molto simile di Nacho Vigalondo, e con un nome così il film è tutto un programma. Andateli a vedere, cioè procurateveli, perché sono due chicche. Le Monk invece che ci dice? Siccome voi ogni volta consigliate libri, io sembro uno che non sa leggere, ne consiglio uno a immagini, perché vado a per gradi, poi arriverà uno con delle parole. Però per ora è il libro che in Italia dovrebbe essere semplicemente Audrey Hepburn, e in inglese si chiama The Audrey Hepburn Treasures, di Ellen Irwin e Jessica Diamond, che esiste anche in versione Kindle, ma per favore non prendetela, costa la metà, ma chi se ne frega, perché quella cartacea è enorme, è piena di tipo il biglietto del cinema di un suo film, ovviamente copia. Varie robe, insomma, della vita di Audrey Hepburn rifatte, insomma, sono belli, sono oggettini che sono dentro, foto e ritagli, eccetera. Quindi comprata, costa parecchio, forse ultimamente è sceso a 35, io non riesco mai a comprarlo, ma prima o poi lo farò. E poi, siccome consiglio sempre roba francese, mi tocca anche questa volta, ma sono contento di consigliare il famosissimo, ma chissà quanti l'hanno visto tra voi giovani, L'ascensore per il patibolo di Louis Malle, che è un capilavoro. Io ho avuto una settimana travagliata tra studio e caldo e quindi non vi consiglio niente. Sono cattivo, sono cattivo. No, vabbè, volevo dare un aggiornamento a una notizia che avevamo pubblicato su Facebook, ovvero dell'uscita del cofanetto di Hitchcock in Blu-ray. Uscirà anche in Italia. 14 film, tutti quelli pubblicati quindi con la Universal. I contenuti sono più o meno gli stessi di quelli che avevamo postato su Facebook. La confezione è leggermente diversa. Mi piaceva sinceramente più quella del cofanetto che uscirà sul suolo inglese. Sinceramente, quella che uscirà sul suolo italiano mi sembra abbastanza anonima. Però c'è un artbook abbastanza voluminoso che, non so, almeno dovrebbe in qualche modo farci accettare il fatto che il packaging è abbastanza anonimo, insomma. E niente, quindi oggi hanno dato la notizia che uscirà anche la quadrilogia ormai di Indiana Jones. Speriamo che non ci sia il ridoppiaggio. E vabbè, oh, finiamola Aspetta, a qui. proposito di ridoppiaggi, è vecchia questa, ma comunque ripetiamola, il 22 agosto esce anche l'edizione Blu-ray dello Squalo, e questa avrà le due tracce, doppiaggio originale e ridoppiaggio, e comunque è un'edizione ricca e finalmente in Blu-ray, manca tanto. Quest'anno, dal punto di vista dell'uscita del Blu-ray, sarà veramente affollato il periodo agosto-ottobre con tutte queste belle uscite. Forse non l'ho detto, il cofanetto di Hitchcock dovrebbe uscire ad ottobre, forse nei primi di ottobre, mi pare di aver letto no, il 19 ottobre, sì. E non lo so, chiudiamo da qui. Settimana prossima torniamo La coda! con l'appuntamento con La Cosa, che vedremo tutti quanti. Io sono un po' curioso di vederlo, Io sinceramente. assai. Sì? Io pure. Beh, l'hanno visto tutti e buone recensioni. È uscito adesso, ma quant'è che gira? Un anno abbondante. Vabbè, tanto male che va, ci rivediamo con l'originale, che è un capolavoro che amiamo tutti quanti. E parleremo di quello, se questo è brutto, dai. Dai. Benissimo. Ok. Tra l'altro, il regista girerà anche il remake di Army of the Dead, l'Armata delle Tenebre. Madonna, è un blasfemo. Un blasfemo, proprio. Questo piscerà sulla tomba di tutti quelli. Vabbè. È vivo, cazzo. Vabbè, quando muore... Lo ucciderà e ci piscerà. Dobbiamo morire tutti, insomma. Oppure gli compra la tomba e gli piscia sopra. Vabbè, dai, chiudiamola qua, se no veramente, col caldo che c'è, cominciamo a delirare. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti! Ciao a tutti i belli brutti, ci sentiamo alla prossima. Bye bye, goodbye, Auf Wiedersehen. I like New York in June. How about you?